Cronache Meridiane di Gianluca Nicoletti. Esiste un pregiudizio ormai diffuso e anche abbastanza facile da esprimere, quello per cui oggi siamo sommersi da immagini, per cui oggi siamo detestabili in quanto affascinati dal nostro egocentrismo di scattare continuamente immagini con la nostra periferica telefonica, di farci continuamente dei selfie, perché siamo come ammalati di una nuova forma di narcisismo, perché siamo diventati ormai totalmente succubi di una tecnologia che ci usa appunto per il suo profitto. Questo è vero fino a un certo punto di vista, questo può essere in alcuni aspetti patologici anche limitativo della nostra capacità espressiva, ma nel bene o nel male ognuno di noi deve farsene una ragione del fatto che mai più sarà come prima, mai più torneremo indietro, a meno che si verifichi alcuna delle profezie apocalittiche della fantascienza, il mondo debba improvvisamente regredire per colpa di un cataclisma, di una guerra batterio termonucleare o qualcosa del genere. Quindi fate ormai pace con la realtà che avremo sempre di più delle protesi che ci aiuteranno ad esprimerci meglio e ci aiuteranno a leggere meglio il mondo. Soprattutto dal punto di vista dell'immagine è cambiato molto. Ho letto qualche giorno fa una reprimenda di un mio collega che diceva: ah, il mondo non sarà più lo stesso perché lo stiamo fotografando in maniera negativa, approssimativa, le videocamere dei nostri smartphone permettono di fare delle foto che attraverso delle applicazioni facilmente usabili da tutti danno delle patine vintage, danno dei viraggi particolari, insomma tutti ci sentiamo dei grandi fotografi, ma la vera bella fotografia non esiste più, quindi avremo la memoria brutta del mondo, avremo una memoria limitata del mondo. Non sono del tutto d'accordo, avremo del mondo la memoria che ci permetterà il senso alla nostra contemporaneità di avere. Le memorie passate erano altrimenti notate e condizionate probabilmente da altri strumenti di lettura. Ecco, oggi vorrei fare una riflessione, forse sarà un po' alta, un po' difficile, ma importante anche per il pubblico che ci ascolta, dell'ora del soffritto. Stefano Morigi, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Stefano Morigi è storico, filosofo della scienza, autore di Connessi, beati quelli che sapranno pensare con le macchine, San Paolo Edizioni. Sei d'accordo? So che sei gioco forza, chiedi se sei d'accordo con quello che dico. Sei sicuramente d'accordo, perché su questo siamo lungamente interrogati assieme. Ma come giustifichi, come pensi te in qualche maniera che possa essere saturato il senso di perduta nostalgia di un tempo passato in cui l'immagine non era così prevalente, soprattutto in cui ogni essere umano non poteva essere artefice di una sua galleria di immagini che sono la sua lettura del mondo e anche la sua memoria del mondo? Sai, uno dei modi per gestire la radicalità di un cambiamento, anche psicologicamente, è quello di idealizzare il passato, poi per magari rifugiarci, sì. In realtà sulle tecnologie io la penso in maniera diametralmente opposta alle tesi di questo tuo collega, perché credo che se si sfruttasse l'opportunità e l'orizzonte anche concettuale oltre che tecnico che le nuove tecnologie offrono, ci sarebbe la possibilità per ripensare le modalità con cui la nostra immaginazione si esternalizza verso il mondo, e di conseguenza si aprirebbe un nuovo orizzonte di creatività diverso, sostanzialmente diverso da quello che conosciamo, e con tutta una serie di sperimentazioni possibili. Ecco, io mi domando se questo non stia già accadendo alle spalle di quelli che si ritirano sdegnosi e sdegnati di fronte al mondo che prende una deriva che non è mai prima stata percepita, in cui tutti i ragazzi, tutte le donne leggere, tutti gli uomini disabilitati non fanno altro che perdere tempo a smanettare nel loro cellulare. Professor Pietro Montani, buongiorno. Buongiorno. Pietro Montani è docente di estetica presso la Sapienza, Università di Roma, autore di Tecnologie della sensibilità, estetica e immaginazione interattiva, Raffaello Cortina editore, un libro da poco uscito. Quello che domando a lei è proprio questo: non sta già accadendo che il mondo si sta esteticamente riscrivendo dal punto di vista della sensazione, che è inutile resistere? Sì, la stessa tesi che ho sentito già esporre sia da lei che da Stefano Morigi è la mia. Io penso che questi cambiamenti siano non soltanto irreversibili, ma anche profondamente radicati nella natura umana. La natura umana è tale che si è sempre fatta orientare dalle tecnologie fin dalla comparsa dell'uomo, e queste tecnologie hanno costruito degli ambienti per l'uomo in cui l'uomo si è riconosciuto, ha trovato se stesso, ha elaborato il suo pensiero, le sue esperienze, eccetera. Qualcosa del genere sta succedendo adesso, con la differenza che per noi è un'occasione, che è qualcosa di inedito, perché non è mai successo prima nella storia dell'umanità che non soltanto noi abbiamo accesso ad una sterminata quantità di immagini, ma siamo anche in grado di elaborarle, manipolarle, cioè ci possiamo mettere le mani sopra. Allora, nel mio libro provo a immaginare che cosa accadrebbe se i livelli fin qui molto elementari, ma non sempre, a dire la verità, poi magari ci possiamo anche tornare, di questa elaborazione, cioè i testi che noi troviamo in internet nei vari siti destinati a questo tipo di condivisione, se questa elaborazione non fosse possibile innalzarla, farla diventare un po' più complicata, cioè metterci nella prospettiva che d'ora in poi elaboreremo i nostri problemi. Elaborare è una parola importante che torna spesso nel mio libro, la intendo anche come elaborazione del dolore, delle difficoltà, del lutto, della perdita e così via. Se noi ci mettessimo nella prospettiva di pensare all'elaborazione come qualcosa che avverrà sempre più spesso con le immagini, e tecnicamente ne abbiamo la capacità e le competenze si stanno diffondendo in modo esponenziale. Quindi il cammino, secondo lei, potrebbe essere abbastanza, non dico semplice, ma conseguente. Noi abbiamo una capacità di elaborare le immagini. Facciamo esempi molto banali per far capire al pubblico. Le nostre nonne si facevano una foto in posa dal fotografo con un fondale dipinto, poi il fotografo magari gli ridava una ritoccatina per farle sembrare più belle, per farle sembrare meno vittime di una fissità quasi cadaverica, capito? Per loro quello era il massimo. Le foto si facevano per i defunti, stampate su ceramica, si tirava all'ultimo momento una foto fuori dal cassettone. Un essere umano avrà avuto, ma anche soltanto 30-40 anni fa, qualche decina, qualche centinaia di foto forse, ma nemmeno, perché consideriamo che negli anni 70 con le tecniche allora sembravano nuovissime, delle foto con la Polaroid erano foto che poi erano evanescenti, hanno la loro fine. Le foto mie di ragazzo degli anni 70 non esistono più, sono illeggibili, le tiene mia madre in una scatola, non si vedono più, sono finite, estinte, hanno avuto una loro vita, ecco. Con la capacità invece oggi di avere tante immagini elaborabili, affiniamo l'idea, il concetto che diventa in noi congenito, che la realtà possa essere elaborata, che non esiste nulla di fisso, di scritto. Rielaboriamo il nostro corpo, rielaboriamo la nostra estetica fisica. Però se posso intervenire ancora un secondo. Sì, è una domanda lunga, ma era una domanda. Sì, la cosa importante è capire come ci troviamo di fronte a un nuovo modo d'essere della scrittura. Quello che cerco di far capire nel libro è che non è vero che la cultura gutenberghiana, quella della scrittura, quindi del pensiero lineare, della ricostruzione simbolica, eccetera, stia andando perduta. C'è questo rischio, ma c'è anche la grande opportunità di cominciare a pensare le immagini come una scrittura. Pensate soltanto a quella cosa che fanno tutti nei social network, che è la timeline, in cui si mettono dei montaggi della propria vita, eccetera. L'altro giorno, parlando con delle persone, stavo suggerendo che in questa timeline, per esempio, qualcuno facesse lo sforzo di cercare di introdurre, se ci si riesce, per esempio le immagini delle decapitazioni dell'ISIS, per vedere se siamo in grado di elaborare quelle immagini, cioè di assumere nei confronti di quelle immagini un atteggiamento diverso da quello che consiste nel porsi di fronte all'alternativa secca, se censurarle oppure guardarle. Non si può provare una terza alternativa, cioè quella di vedere fino a che punto riusciamo ad elaborarle e inserirle nella nostra timeline, che è un evento di montaggio, quindi un evento di scrittura, qualcosa che non ci allontana dalla cultura della scrittura, ma la ripropone. È chiaro che abbiamo una grande indigenza nei confronti di questo fenomeno, perché il fenomeno si sta sviluppando in modo totalmente spontaneo, anarchico, legato ai sistemi di default, quindi a quello che fornisce la tecnologia in uso, però ha delle potenzialità strepitose. Stefano Morigi, quanto incide in questo In questo processo che ha descritto il professor Montani, l'aspetto ludico, noi in fondo lo facciamo perché ci piace, ci dà gusto, nessuno ci obbliga. Noi stiamo ricostruendo la nostra timeline, cioè facendo le cose che per noi è un divertimento. Figurati, tu sei entrato in questo studio e hai fatto una foto di noi che stiamo per iniziare a fare la trasmissione. Sarà, non dico una pietra miliare, ma sarà un tassello che potrei andarti a rivedere fra qualche mese, qualche giorno, fra qualche anno. Io il mio profilo Facebook mi sembra da 5 anni, mi pare. E rivedere gli anni indietro, riacquisisco una lettura dei miei anni passati che è diversa da tutte le mie memorie precedenti, fatte di agende, di diari, di articoli scritti, è totalmente un'altra cosa. Quanto l'aspetto che ciò sia divertente incide? Stiamo ricostruendo una storia divertente della nostra vita? Sicuramente sì, e anche a diversi livelli. Sicuramente la maggior parte delle persone gioca con le immagini in maniera un po', se vuoi, dilettantesca, nel senso che intendi tu, ma anche nel senso più allargato del termine, perché, come dire, si muove in quell'orizzonte di alfabetizzazione spontanea, come la chiama Montani nel suo libro. Però questo gioco sia condivisa non è proprio assolutamente oggi no. Non è più niente fatto nel buio della propria cameretta, nel segreto del proprio cassetto. Infatti diventa una pratica sociale, ma questo secondo me apre un'opportunità grande su cui stiamo anche lavorando e che riguarda le modalità di espressione ma anche di apprendimento. Il fatto che per esempio le tecnologie entrino nella scuola è un fenomeno che deve essere accompagnato dalla consapevolezza che non siamo semplicemente di fronte a un problema di aggiornamento informatico, ma di evoluzione e cambiamento degli stili di apprendimento che partono da quel gioco, ma arrivano a elaborazioni di senso più alte che anche modelli di didattica devono riuscire ad accogliere dentro le proprie dinamiche. La parte importante di questo problema, che riprenderò fra un istante dopo l'informazione del traffico, è proprio questo. Se sono dei metodi di apprendimento, sono dei metodi che al momento sembrano sfuggire a quella che è la grande macchina strutturata e organizzata che si occupa dell'apprendimento, delle persone che devono appunto apprendere. Ecco, questo è il punto. Quando questa sorta di apprendimento spontaneo sarà in qualche maniera codificato, o è necessario sia codificato? Melog, cronache meridiane. Voi ovviamente non potete vedere con i miei occhi, ma vi dico io quello che vedo. Alzando la testa si abilita LUD, vedo l'ora, 12:39. Sotto un virgolettato mi dice, si è rispento, OK Glass. Possiamo fare qualunque cosa dopo OK Glass. Abilitiamo di nuovo il menu, possiamo registrare video. Così scorro il menu, quindi non sono pazzo, sto semplicemente muovendo la testa per scorrere il menu. Quindi prendere una foto, registrare un video, mandare un messaggio e poi mi è venuto il torcicollo. Questa era una prova su strada dei Google Glass. I Google Glass sono un oggetto lungamente e capillarmente evocato nel libro del professor Pietro Montani, Tecnologie della sensibilità, ricordo estetica e immaginazione interattiva, Raffaello Cortina, editore. Professor Montani, i Google Glass sono il primo tassello, poi arriveranno un'infinità di altre tecnologie indossabili che ci permetteranno di amplificare e diversificare quelli che sono i nostri antichi e vecchi sensi. Però è un primo passo per capire come cambia la nostra estetica. Non occorre più prendere un oggetto in mano, impararne l'uso, usare e pensare il prodotto di questo oggetto. Oggi già la fotografia digitale ci permette di scattare un'infinità di foto senza mai pensare quale sarà quella giusta, se non dopo, a posteriori. Un fotografo professionista ci direbbe, ma è una foto, devo pensarla, devo immaginarla prima di scattarla. Tu ne fai 100.000, poi per botta di fortuna te ne vengono bene un paio. Ecco, invece Google Glass è qualcosa di più, è una sorta di protesi, di prolungamento, di compensazione di alcuni nostri sensi che ci permettono di immagazzinare e di saggiare e di affinare la nostra estetica. Sì, io sono stato molto colpito da Google Glass perché accanto a molti altri gadget simili è quello che ci fornisce in modo più diretto, più efficace l'idea della grande trasformazione che io cerco di mostrare in questo libretto, che le tecnologie indossabili, Google Glass è indossabile, stanno portando nel nostro rapporto con le tecniche stesse. Qual è la grande novità? È che secondo me questa cosiddetta realtà aumentata, cioè il fatto che dal mondo reale ci provengano impulsi che possono essere trasformati in informazioni ricevibili da un da un processore che possiamo indossare molto leggero come Google Glass, introduce una novità rispetto alla vecchia idea di realtà virtuale. Noi adesso entriamo tecnologicamente più attrezzati nel mondo stesso e questo ci porta a modificare i rapporti che abbiamo con cioè il mondo. Vengono taggati i luoghi fisici. Esattamente, e dunque questo apre, ci mette di fronte agli occhi un'alternativa secca che è possibile aprire. Se noi facciamo gestire totalmente Google Glass dal mercato, ma il mercato può gestire fino a un certo punto perché le risposte degli utenti sono imprevedibili, però il mercato orienta, Google Glass diventerà un organizzatore della mia agenda quotidiana, cioè qualcosa che ottimizza i miei rapporti quotidiani, mi permette di fare una serie di cose molto più rapidamente, ottenere una gran quantità di informazioni molto più rapidamente e inoltre, cosa non da sottovalutare, di portata antropologica, libera entrambe le mani, come al primo ominide che si alzò e aveva le mani libere nella deambulazione, quindi qualcosa di straordinario. Ma i profeti di sventura diranno, si guardi il film Herley, la persona che si innamora della voce che ha nell'auricolare, allora immagina un futuro nemmeno tanto lontano in cui l'interfaccia è vocale, abbiamo una vocina che ci racconta, ci legge la posta, ci fa tutto e il protagonista di questo film si innamora in maniera appassionata di questa voce che in realtà è un sistema intelligente che poi si perfeziona e lo lascerà e rimarrà disperato che l'ho abbandonato la voce del computer. Certo, certo. Ma di fronte a questa prospettiva, che peraltro è una prospettiva che si può interpretare anche in modo molto favorevole, perché mai le macchine non dovrebbero produrre anche affettività e così via, si può pensare invece ad un uso completamente diverso di Google Glass e se voi guardate ormai la grandissima quantità di spot, clip che sono stati creati, commissionati da Google oppure creati spontaneamente su Google Glass, avete un campionario delle grandi differenze che possono nascere da questa grande tecnologia. Per esempio è possibile con Google Glass esplorare i rapporti di reciprocità in modo come non è mai accaduto prima. Pensi soltanto alla condivisione simultanea di Google. Io posso guardare la stessa manifestazione politica oppure lo stesso concerto con i miei occhi ma con quelli di una serie di persone con cui sono collegato e che sono posizionati in posti diversi. C'è una ricaduta politica evidente. Proviamo a trasformare il concerto in una piazza come le grandi piazze della primavera araba e si avrà immediatamente, tangibilmente l'impressione della vera trasformazione. Ma se posso aggiungere una cosa importante, direi, perché prima nell'ultimo suo intervento lei ha toccato un punto assolutamente decisivo, cioè se non c'è un aspetto ludico in questo tipo di utilizzazione, il gadget tecnologico è destinato a deperire. Quindi deve essere alimentato da una potente corrente ludica, soltanto che dobbiamo cominciare a pensare il ludico in senso più serio, cioè non c'è niente di più serio del gioco. Se n'era accorto, visto che nella premessa lei aveva detto parleremo di cose elevate, facciamo almeno un nome, se n'era accorto Walter Benjamin nella sua famosa testo sull'opera d'arte, riprende la riproducibilità dell'opera d'arte, in cui si parla di due tipi di tecnica e si parla di una tecnica specificamente improntata alla ludicità, in cui la ludicità diventa una cosa serissima che ci serve appunto a incrementare la nostra capacità di interagire con le macchine. Vuoi sentire un attimo Stefano Morigi su questo? Ricordo filosofo e storico della scienza, ma anche cioè storico e filosofo della scienza, ma anche molto interessato e studioso del problema della scuola, ha scritto connessi, beati quelli che sapranno pensare con le macchine. Ecco, come facciamo però a eliminare l'anatema nei confronti del ludico in quanto detestabile non certo veicolo di conoscenza? Una scuola può diventare ludica e passare attraverso macchine che facciano anche divertire o deve sempre rimanere questo aspetto punitivo, austero, per cui l'apprendimento è qualcosa che costi fatica e sacrificio? Sicuramente deve entrare, e anche il gioco, come diceva giustamente il professor Montani, deve essere riqualificato anche dal punto di vista della didattica. Insomma, la conoscenza è un'esperienza ludica, la conoscenza alta, quella della ricerca, si parla sempre di passione per la ricerca, si parla sempre di entusiasmo oltre che di fatica per il ricercatore. Non ho capito perché quelli che sono solo in potenza dei piccoli ricercatori debbano invece vivere l'esperienza dell'apprendimento cambiamento come qualcosa di necessariamente passivo, difficile e anche noioso. Io credo che proprio un'analisi delle dinamiche indotte dalle nuove tecnologie può consentire di ripensare il setting didattico, cioè il modo in cui si sta anche fisicamente dentro la classe, oltre che il modo con cui si può apprendere, e la direzione verso cui i modelli di didattica aumentata dalle tecnologie stanno andando assomigliano, e questa io la vedo come una grande opportunità, alle pratiche che i ricercatori utilizzano quotidianamente, ormai in maniera irriflessa, dentro i loro laboratori. Quindi gli studenti avranno l'opportunità di diventare dei piccoli ricercatori tenendo insieme diversi stili di apprendimento: apprendimento quello lineare a cui si faceva riferimento prima, apprendimento per immagini e per altri tipi di linguaggi. Certo, perché questo accada, che è un futuro che ci interessa e ci sembra appetibile, occorre che siano cambiati radicalmente tutti i ranghi di chi in questo momento si occupa di insegnare e di far apprendere. Perché... Beh, tieni conto che l'età media dei docenti della scuola italiana va dai 54 ai 56 anni. Devo anche dire che, incontrando molti insegnanti nelle scuole, trovo una resistenza a volte più forte in giovani che sono convinti di sapere usare le tecnologie, di come le tecnologie possono essere usate, semplicemente perché utilizzano la mail o Skype, ma che non hanno ancora invece affrontato il grande problema, che non è, ribadisco, solo quello di un aggiornamento informatico, ma la comprensione di una grande rivoluzione cognitiva e antropologica. Grazie Stefano Morigi, grazie il professor Pietro Montani, alla prossima.